Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Aspettando Draghi, l'Europa si occupa di OGM. L'accordo di principio raggiunto tra Consiglio, Commissione e Parlamento UE a Bruxelles ci porta molto vicino a un grande traguardo europeo sotto la presidenza italiana. Così il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti commenta l'esito del lungo negoziato, cui ha partecipato direttamente, che si è concluso a Bruxelles sulla proposta di direttiva riguardando gli organismi geneticamente modificati. E questa è dunque la possibilità che viene affrontata, fermata alla fine di questa trattativa, di scelta individuale per ciascun paese dell'Unione. La conferenza dei presidenti dell'Europarlamento, alla luce del caso LuxLeaks, ha dato oggi il via libera alla preparazione di due rapporti sull'elusione fiscale nell'UE e le differenze esistenti tra un paese e l'altro. La Commissione per gli affari economici e monetari dovrà quindi presentare un documento con i risultati dell'inchiesta che sarà svolta e un altro rapporto in cui vengono indicati gli interventi legislativi necessari per sanare la situazione. Tutto questo dopo, naturalmente, che con l'investitura di Juncker l'Europa sembra essere accorta che esistono tassazioni diverse all'interno del sistema. E ora parliamo di spazio aereo. Di sicuro tutti sono d'accordo sul fatto che lo spazio aereo europeo è tra i più congestionati al mondo e l'attuale sistema di gestione del traffico soffre di varie inefficienze. Dopo un incontro dei ministri a Bruxelles, il progetto ormai in stand-by da tempo di cielo unico europeo potrebbe arrivare ad una svolta. Sentiamo la commissaria ai trasporti Violetta Bulc in questa intervista realizzata da Euronet Plus. Sentiamola. Adesso è stato raggiunto un accordo generale e per me è un segno della buona volontà dei partecipanti nel voler prendere misure concrete e ambiziose per incentivare la competitività nel trasporto aereo. Siamo tutti in linea sulla sostanza e sono soddisfatta perché significa un grande passo avanti. L'accordo ha costruito una strada solida per la prossima fase di negoziazione sotto la presidenza della Lettonia, ma una delle questioni chiave deve essere ancora risolta e questo va fatto in modo bilaterale tra i due Stati membri. Anna Marino ha chiesto anche quale possibili tempistiche per chiudere l'intesa a Jacopo Persinotti, responsabile attività internazionali di ENAV. Sentiamolo. Lo sforzo che la presidenza italiana, insieme al Ministero dei Trasporti, noi come ENAV abbiamo fatto è stato quello di trovare delle formule di contenuto che potessero permettere una piena convergenza fra tutti gli Stati. Sono state trovate? Sono state trovate, senza compromettere quello che è l'obiettivo più importante, cioè quello di chiudere sul cielo unico europeo 2+ al più presto. Quindi adesso questa posizione comune raggiunta, a prescindere dal voto di opposizione dell'Inghilterra legato alla questione di Gibilterra, che nulla ha a che fare col controllo del traffico aereo, tanto per essere chiari, consente di avere tutti gli Stati dell'Unione d'accordo sui contenuti. I prossimi passi è che si attiverà il cosiddetto trilogo, cioè il Consiglio europeo, cioè gli Stati dell'Unione europea, insieme alla Commissione ed insieme al Parlamento europeo, dovranno finalizzare il testo di questa legge. Le aspettative sono che in 2-3 mesi ce la si possa fare. Ma la tempistica più o meno? Primavera dell'anno prossimo sicuramente sarà chiuso, io spero anche prima. In conclusione, un nuovo bilancio del costo sociale del crimine organizzato e delle mafie, fatto questa mattina dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, ha parlato di una perdita secca nell'ordine dei 670 miliardi di euro ogni anno. Questo Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, e con questo è tutto per Europa 24, che torna come di consueto domani intorno alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.